Capitolo 144. Iole. A Trachine Eracle raccolse un esercito di Arcadi, Meli e Locresi e Picnemidi e marciò contro Ecalia per vendicarsi di re Eurito che aveva rifiutato di concedergli la principessa Iole, da lui lealmente vinta in una gara con l'arco. Tuttavia ai suoi alleati gli disse soltanto che Eurito esigeva ingiustamente un tributo dagli Eubei. Piombò dunque sulla città, trafisse con le magiche frecce Eurito e i suoi figli, e dopo aver sepolto alcuni dei suoi compagni caduti in battaglia, e cioè Cece, figlio di Ippaso, e Argeo e Mela, figli di Licinio, mise a sacco Ecalia e fece prigioniera Iole. Piuttosto che cedere a Eracle, Iole preferì vedere uccisa sotto i propri occhi tutta la sua famiglia e poi si gettò giù dalle mura. Tuttavia sopravvisse perché la sua gonna si allargò al soffio del vento e attutì la caduta. Eracle la mandò allora con altre donne di Ecalia da Deianira a Trachine, mentre egli si recava sul promontorio dell'Eubea detto Ceneo. Dobbiamo qui ricordare che al momento di congedarsi da Deianira, Eracle fece una profezia. Di lì a 15 mesi egli avrebbe dovuto morire, oppure trascorrere il resto della sua vita in completa tranquillità. Questo egli aveva letto nel volo di due colombe identiche levatesi dall'antica quercia oracolare di Dodona. Non si sa con esattezza quale delle città chiamate Ecalia fosse saccheggiata in quella occasione, se l'Ecalia in Messenia o in Tessaglia o in Eubea o in Trachinia o in Etolia. L'Ecalia messenica è la più probabile, dato che il padre di Eurito, Melaneo re dei Driopi, un abilissimo arciere chiamato perciò figlio di Apollo, giunse in Messenia durante il regno di Periere, figlio di Eolo, e fu accolto in Ecalia come se fosse la sua patria. Ecalia fu così chiamata in onore della moglie di Melaneo. Colà, in un sacro bosco di cipressi, sacrifici eroici in onore di Eurito, le cui ossa sono conservate in un'urna di bronzo, danno inizio ai misteri della grande dea. Altri identificano Ecalia con Andania, città che sorge a un miglio dal bosco di cipressi e dove un tempo si svolgevano questi misteri. Eurito fu uno degli eroi che i Messeni invitarono a risiedere tra loro quando Epaminonda recuperò i territori nel Peloponneso. Eurito si era rifiutato di cedere Iole dicendo che Eracle era uno schiavo. Benché la leggenda del suicidio di Iole sia anche plausibile, le donne micenee portavano gonne a campana e mio padre vide un giorno una suicida dell'epoca vittoriana salvata dalla sua ampia crinolina, è più probabile che l'episodio sia stato tratto da una raffigurazione della dea sospesa sopra un esercito nemico durante un assedio alla città. Il nome di Ecalia, casa della farina, dimostra che Demetra era la dea in onore della quale si celebravano i misteri.